Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera incontriamo un personaggio che domina gli eventi che i cattolici ricordano in questi giorni, nella prossima settimana, la settimana che per loro è la settimana santa, quella che anticipa la Pasqua. Il personaggio è Ponzio Pilato, il governatore della Giudea che condannò a morte Gesù Cristo. Ponzio Pilato è diventato protagonista di un appassionante libro di un celebre storico italiano, esperto del mondo romano, che è Aldo Schiavone, il quale con Einaudi pubblica appunto Ponzio Pilato, un enigma tra storia e memoria, 176 pagine, 22 euro. Come noto, di Pilato si sa pochissimo, se non quello che i Vangeli, alcune pagine apocrife, ci hanno raccontato sul ruolo che svolse in quelle poche ore che vanno dall'arresto nel Getsemane alla condanna a morte e poi alla sepoltura di Gesù. Il personaggio è ambiguo, sfuggente, ha ispirato alcuni grandi scrittori come Anatole France e Mikhail Bulgakov. Schiavone qui cerca di sollevare questo velo di ambiguità. Da storico ripercorre i testi, essenzialmente i Vangeli, ma non soltanto. In particolare si sofferma su quello di Giovanni per le ragioni che adesso vedremo. Schiavone ricorda poi appunto le ulteriori e rare testimonianze su Pilato, mette in luce le possibili inesattezze o le autentiche distorsioni contenute proprio nei Vangeli, e ne emerge, come dicevo, un quadro appassionante, una biografia quasi impossibile che però si legge come un romanzo e che ci colloca Pilato in un quadro inaspettato, non quello del prefetto ottuso e violento, ma piuttosto quello dell'uomo di governo che si scontra con una realtà metafisica che non comprende, ma di cui confusamente percepisce la forza. Ma sentiamo l'autore. Buonasera, Aldo Schiavone. Buonasera. Aldo Schiavone, nel suo libro lei innanzitutto insiste su un fatto, cioè che Pilato fu presente non soltanto nel processo, anzi ne fu ovviamente il protagonista assieme a Gesù Cristo, ma fu a partecipe anche della cattura di Cristo, quindi fu protagonista diretto di questa vicenda, non un personaggio relativamente secondario, accessorio, che entra in scena soltanto con la condanna. Aveva avuto un ruolo importante anche prima della condanna e del processo. Non c'è dubbio. A mio avviso le testimonianze di cui disponiamo rendono questa ricostruzione l'unica plausibile, l'unica che dà un senso alle cose. È impensabile che la guardia giudaica avesse da sola deciso su ordine del Sinedrio di eseguire questo arresto senza che ci fosse un consenso romano all'intera operazione. E dall'altra parte c'è, come sappiamo, questa testimonianza che io considero decisiva di Giovanni, che è di tutti gli evangelisti quello il cui racconto è più attendibile, diciamo, quello che si avvicina di più ad una vera e propria ricostruzione storica, il quale Giovanni, come dicevo, parla esplicitamente di un distaccamento romano comandato da un tribuno, il quale avrebbe partecipato all'arresto. Nella ricostruzione che io do non si tratta di una partecipazione diretta all'arresto, piuttosto di una copertura della zona, diciamo così, in cui l'arresto avveniva, per essere sicuri che non ci fossero disordini o non ci fossero tentativi da parte dei seguaci di Gesù di liberarlo, ecco, quindi che tutta l'operazione condotta in prima persona dalla guardia giudaica andasse a buon fine con l'arresto del prigioniero. Restiamo ai testi. Come mai lei giudica il testo di Giovanni quello più attendibile, anche se poi mette in luce delle aporie, delle contraddizioni, certo, anche in quel testo? Per la verità non sono soltanto io a far questo, c'è tutta una tradizione storiografica. Basta pensare per esempio a Fergus Miller, che è uno dei maggiori antichisti viventi, che ha scritto dei lavori estremamente importanti. Il testo di Giovanni è l'unico il quale, come dire, offre qualche cosa, come dicevo, che si avvicina ad una ricostruzione storica ed è più vicino alla realtà storica, politica, culturale della Palestina, della Giudea negli anni a metà del primo secolo dopo Cristo rispetto invece ai sinottici. Io non faccio nel mio libro che riprendere e condividere questa tradizione storiografica ormai consolidata anche presso gli studiosi, diciamo, specificamente dedicati all'esegesi del Nuovo Testamento, i cosiddetti neotestamentisti, insomma, ecco. Veniamo a quello che è l'aspetto forse più affascinante del suo libro, cioè la descrizione di questo rapporto che si crea in quelle poche ore tra Gesù Cristo e Ponzio Pilato. Lei scrive e insiste su una questione, cioè che Cristo voleva farsi condannare e che Pilato alla fine lo abbia agevolato. A un certo punto lei scrive: il governatore si rese definitivamente conto dell'atteggiamento del prigioniero e si persuase, fortemente suggestionato da lui, a non contrastarne il disegno. E quindi aggiunge: tra Pilato e Gesù si strinse come un tacito e indicibile patto. Ci fu più, quindi, più che un processo, fu un dialogo, come lei scrive nel libro. Dunque, un processo certamente non fu, fu un'inquisizione condotta, come sempre, come d'abitudine, era routine, dal governatore romano, da Pilato, un'inquisizione la quale ad un certo momento si trasforma in un vero e proprio dialogo. E io credo che l'unica interpretazione che possa dare un senso alla vicenda sia questa. Pilato inizia questa inquisizione, come dire, con curiosità e diffidenza. Lui è diffidente rispetto all'aristocrazia giudaica che gli ha portato il prigioniero davanti, che ha, come dire, ordito la congiura per arrestare Gesù, e non vuole essere uno strumento di una vendetta giudaica. Ecco, quindi lui ha un atteggiamento di diffidenza verso questo arresto, che pure in qualche modo ha autorizzato, e vuole capire chi è questa persona che questo gruppo di aristocratici sadducei vogliono assolutamente che sia condannato a morte. Quindi è tra il diffidente e l'incuriosito, e si trova di fronte a questa persona che da uomo doveva possedere un carisma straordinario, assolutamente fuori del comune. E più procede avanti l'inquisizione, più lui si rende conto che questo uomo, certamente, dicevo, dotato di un carisma straordinario, è un uomo il quale non vuole salvarsi, non fa nulla per salvarsi. E quando Pilato gli offre più di una via, addirittura gli apre un'autostrada davanti perché lui si salvi, si accorge che invece questo prigioniero non percorre questa strada che gli viene aperta davanti, e questo lo colpisce moltissimo. E ad un certo momento lui si rende conto che Gesù non vede altro davanti a sé se non la condanna a morte. Dall'altra parte gli aristocratici sadducei, i grandi sacerdoti, i suoi accoliti premono perché Gesù venga condannato a morte, e lui a un certo momento dice: è morte sia. Ecco, veniamo ai due momenti topici di questo lungo, sì, non lunghissimo confronto tra Cristo e Pilato. Il primo è quando Pilato rivolge a Gesù la domanda: che cos'è la verità? Lei definisce questo momento come il punto più alto di tutto il confronto, e poi definisce questa domanda come una domanda genealogica. Che cosa intende? C'è, come lei sa bene, tutta una interpretazione che risale a Nietzsche, che vede in questa domanda un segno, come dire, di spregio verso Gesù, una domanda beffarda, una domanda sarcastica, quindi in qualche modo piena di violenza, sicuramente di una violenza verbale: tu parli, tu nomini questa verità, ma cosa vuoi che sia questa verità? Ecco, la mia interpretazione è un po' diversa, cioè che non c'è questa carica di spregio, questa sprezzatura, diciamo, di Pilato nei confronti di Gesù in questa domanda, e che è invece una domanda, come dire, genealogica, nel senso una domanda che cerca di arrivare al punto, di risalire al punto cruciale della testimonianza di Gesù, del ruolo di Gesù nell'Inquisizione. E cioè, ma che cosa puoi dire? Da dove ti viene questa certezza che tu sei la verità? In questo senso genealogico, è una domanda che tende, come dire, a fissare un'origine, a fissare un punto di inizio, ecco, di cui Pilato vuole rendersi conto. Quindi in questo senso non c'è la sprezzatura e come dire, la violenza, il rifiuto, ecco, che vivede Nietzsche, e tutta una tradizione che si rifà a lui, una tradizione interpretativa che si rifà a lui. C'è invece piuttosto questa curiosità di capire, di rendersi conto di chi ha di fronte Pilato. L'altro episodio, l'altro momento topico, è quando Pilato si lava le mani, che è stato poi rappresentato in tantissimi quadri, eccetera. Questo è un episodio che lei invece smonta completamente. Sì, sì, a mio avviso è impensabile, per ragioni, come dire, formali e sostanziali che il pilota avesse compiuto un gesto simile, intanto era un gesto che esisteva solo, come dire, fissato, codificato solo nella tradizione ebraica, e che un governatore romano nell'esercizio delle sue funzioni compisse un gesto completamente estraneo alla propria cultura e alla propria tradizione, come dire, rituale e giuridica, ma che fosse soltanto un gesto della tradizione del paese in cui si trovava, io lo escluderei completamente, non stava proprio, come dire, nelle tecniche culturali, nelle modalità culturali dei dominatori romani rispetto alle popolazioni conquistate che loro amministravano. Non ci credo nemmeno per una ragione di coerenza sostanziale, perché chi si lava le mani esce dalla vicenda, si lava le mani e dice: io non c'entro niente, me ne vado via. Ma Pilato invece non va via, rimane lì e giudica, quindi c'è un'incongruità come dire, di secondo grado, diciamo così, ammesso anche che è già impensabile che Pilato avesse deciso di compiere un gesto, come dire, tutto ebraico e per nulla romano. Rimane il problema che dopo quel gesto avrebbe dovuto lasciare, abbandonare, come dire, l'inquisizione, andare via, invece lui rimane e condanna e prende una decisione, quindi non si lava le mani, quindi una incongruità assoluta. E quindi lei che idea si è fatto di Pilato? Se dovesse invitarlo a cena, che cosa gli chiederebbe? Che impressione gli ha fatto Gesù? Davvero che impressione gli ha fatto Gesù? Questo gli chiederei. Come ti è parso? Come ti è parso? Chi era quest'uomo che ci stava di fronte, secondo te? Grazie ad Aldo Schiavone, autore di Ponzio Pilato. Buona serata. Grazie a voi, buona serata. Parliamo adesso di una pratica che una volta era molto associata a questi giorni di preparazione della Pasqua, cioè la confessione, un sacramento e una pratica appunto che sembrano declinare, non solo perché meno gente va in chiesa, ma perché anche quella che ci va si confessa molto meno. Ma è proprio così, risponde a questa domanda il libro di un celebre vaticanista, Aldo Maria Valli, che è autore di C'era una volta la confessione, inchiesta su un sacramento in crisi, pubblicato da Ancora, 126 pagine, 14 euro. L'autore è un po' meno pessimista di quanto si possa pensare, gli scrive che il panorama generale di chi si confessa non ha per niente l'aspetto di un deserto. E Valli analizza la situazione sul campo da bravo cronista, parlando con preti, vescovi, fedeli di tutta Italia, cercando di capire perché molti non si confessino, perché molti continuano a farlo, quali siano i peccati che più frequentemente sono confessati. Quasi sempre, spiega, anzi lo dicono i suoi testimoni, i peccati più gettonati sono quelli contro il prossimo e quelli contro la propria famiglia. E Valli ironicamente nota che evidentemente c'è un familismo anche nel confessionale. In realtà, scrive l'autore, è proprio il presupposto della confessione, cioè il peccato che, aggiunge, sarebbe ormai sparita nella nostra società dall'orizzonte spirituale e culturale per lasciare il posto a vaghi malesseri interiori. E aggiunge un vescovo italiano, Domenico Cancian, che la tendenza prevalente è alla superficialità, alla rimozione delle responsabilità spostandole sugli altri, all'omologazione col pensiero dominante come verità di fatto, al che male c'è, così finisce il presule, si arriva a una pratica giustificazione del male e alla connivenza con esso. E quindi il rapporto con il senso del peccato, conclude Valli, è la conseguenza del rapporto o mancato rapporto che abbiamo con Dio. Ci interrompiamo per un attimo, ci sentiamo fra pochi istanti. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su Radio24.it. Radio 24, la passione si sente, anche in viaggio. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Se nei prossimi giorni vi disponete a qualche viaggio e magari prendete il treno, munitevi di questo libro che vi consiglio, Andar per treni e stazioni, di Enrico Menduni, che è un autore cinematografico e televisivo. Il libro è pubblicato dal Mulino, 134 pagine, 12 euro. Menduni parte dalla premessa che il treno è tornato di moda. Anzi, grazie all'alta velocità, scrive lo stesso autore, viaggiare in treno è tornato a essere uno dei tratti della modernità, non solo un esercizio nostalgico o l'abitudine di chi ama la lentezza. Poi naturalmente rimangono vecchie disfunzioni, ci sono carenze nella rete, ma insomma il treno è certo nostalgia delle vecchie linee, ma anche strumento di efficienza e di rapidità. Menduni qui ci accompagna in un viaggio da Milano a Salerno dopo aver rapidamente percorso la storia delle ferrovie in Italia, e lo fa con immagini ed evocazioni da film e opere letterarie, sottolineando la trasformazione che la linea ferrata determinò nella società italiana, di cui fu l'autentica spina dorsale, come la definisce egli stesso. E in questa trasformazione le stazioni assunsero il carattere di cuore laico della città moderna, oggi spesso sottoposte a interventi di recupero e trasformazione, che anche questi vengono puntualmente ricordati nel libro. Ma sentiamo, per misurare l'evoluzione che è avvenuta nel modo stesso in cui viaggiamo in treno, queste righe che Menduni cita da Italo Calvino. Federico V scelse uno scompartimento vuoto, non sulle ruote, ma nemmeno troppo all'interno del vagone, sapendo che di solito chi sale in fretta in treno tende a scartare i primi scompartimenti. La difesa del posto necessario per viaggiare coricati è fatta di minimi mezzi psicologici. Federico li conosceva e metteva in opera tutti. Per esempio, tirò le tendine sulla porta, la borsa, il soprabito, i giornali. Federico li sparpagliò sui posti di fronte accanto a lui. Un altro luogo dell'immaginario collettivo accanto alle stazioni sono i fari, alcuni dei quali, anzi, ricorderete, sono stati messi in vendita, affrettarsi per le ultime occasioni. E un faro è protagonista dell'ultimo libro di Paolo Rumiz, giornalista di Repubblica, autore di molti libri sul viaggio, il camminare, lo spostarsi. Il libro si chiama Il Ciclope, Feltrinelli, 152 pagine, 15 euro. Il Ciclope è appunto il faro, col suo unico occhio rotante, potentissimo, che domina una isoletta nella quale Rumiz trascorrerà 3 settimane, a partire proprio da un sabato di Pasqua. Ci arriva nel pieno di una tempesta, fa freddo, qui troverà altri 2 compagni, gli unici abitanti dell'isola, il comandante e il suo aiutante. Saranno giorni di isolamento totale, senza radio, televisione, internet e telefono. E Rumiz ne ricava una storia di cui riconosce sono stati autori, come scrive egli stesso, il vento e la marea. Io non ho fatto, aggiunge, che registrarne la voce amplificata dal ventrecavo della torre. Rumiz non vuole comunicare il nome dell'isola, comunque importante per le segnalazioni marine, e anzi, se dovessimo scoprirne il nome, ci prega di non rivelarlo per non devastare quell'isola con le orde dei turisti. Anzi, aggiunge, se doveste rompere il patto e dire forte quel nome, vi maledirò come Long John Silver sull'isola del tesoro. Comunque dobbiamo essere all'incirca nell'Alto Adriatico. E sentiamo dal libro la testimonianza di una cerimonia religiosa che si svolge appunto il Venerdì Santo nella piccola città costiera dalla quale Rumiz muoverà in traghetto verso il faro. Nel pomeriggio del Venerdì Santo, con mare tempestoso di scirocco, un traghetto pieno di femmine mi portò molto al di là della grande isola per sbarcarmi in un porticciolo simile alle fauci di uno squalo. Nella chiesa maggiore del paese, dove avrei pernottato, un chierico impugnò la croce come una spada davanti a pie donne genuflesse, mentre sul sagrato decine di bambini agitavano girandole di legno, come un frinire di grilli, in attesa della processione. Quando dentro finirono bordoni e litanie, fuori cominciò il canto. Maschile, potente, in mezzo a una folla di ceri. Era a Sardegna, Baleari, Grecia. Voci di un cristianesimo contaminato dall'ebraismo ispanico e dalla sevdà dei turchi dell'Egeo. La voce stessa del Mediterraneo, la processione partì nelle strade deserte. E non c'era che la processione in paese. La processione era il paese. Gli uomini chiamavano, le donne rispondevano, e dietro agli incensi e ai paramenti sacri, quello che contava era quel canto civico, laico, di una comunità fieramente legata alle radici. E io pensavo che chiese e fari erano abitati in fondo dagli stessi dei. Se in treno, in traghetto, in viaggio, magari in un faro, avete qualche ora libera, vi segnalo qualche libro che ci può aiutare a capire la nostra posizione nell'universo e il nostro destino come esseri viventi. Innanzitutto quello di uno studioso italiano, Guido Tonelli, che è un fisico di Pisa ed è uno dei protagonisti della scoperta del famoso bosone di Higgs, che ha scritto La nascita imperfetta delle cose, La grande corsa, La particella di Dio e La nuova fisica che cambierà il mondo, è pubblicato da Rizzoli soli 336 pagine, 19 euro. La scoperta alla quale Tonelli ha collaborato è una delle più importanti degli ultimi anni e qui lo scienziato ce ne spiega il significato e il valore. Tonelli e i suoi colleghi studiano l'origine dell'universo, una ricerca importante che ci consentirà la comprensione del mondo e anche il suo possibile destino. Tutto comincia in questo modo. Avvenne nei primissimi istanti subito dopo il Big Bang, quando quello che sarebbe diventato il nostro universo aveva ancora dimensioni insignificanti. Ed è qualcosa di straordinario. Improvvisamente, una particella molto speciale, che per convenzione chiamiamo inflatone, conquista il centro della scena e da quel momento si innesca una formidabile progressione. Lo strano materiale produce, nella microscopica singolarità, una pressione di energia negativa, cioè spinge tutto in maniera furibonda verso l'esterno. L'espansione riguarda tutto, anche lo spazio. È la struttura del vuoto a espandersi. Scivolando lentamente verso una buca di potenziale, un minimo locale di energia, come una pallina che rotoli in un avvallamento in cerca di una condizione di equilibrio, l'universo rilascia in ogni suo punto l'energia in eccesso, sotto forma di espansione. È un'energia molto elevata, che durante l'espansione rimane essenzialmente invariata. Quindi la spinta a un'ulteriore espansione permane e la crescita delle dimensioni diventa esponenziale. In pochissimi istanti un niente diventa un tutto. Poi, di colpo, in un modo che resta da chiarire, il sistema esce dalla piccola buca locale in cui si trova e precipita rapidamente verso un altro minimo di energia, più stabile, dove si trova tuttora. E la crescita parossistica si placa. In un brevissimo istante, il tempo di trovare il giusto minimo nel quale assestarsi, quell'insignificante oggetto microscopico iniziale è diventato una cosa gigantesca. Come avete sentito, Tonelli usa un linguaggio piano, appassionante, rivendicando la natura quasi di artista dello scienziato. Gli artisti e gli scienziati, infatti, devono avere entrambi, scrive l'autore, menti elastiche, curiose, prive di pregiudizi e pronte ad accogliere ogni sorpresa, consapevoli che, per costringere il mondo nelle nostre categorie mentali, occorre liberarsi di ogni residuo di senso comune e avventurarsi in territori ignoti. Gli artisti e gli scienziati sono gli unici esseri umani che non hanno paura di perlustrare luoghi sconosciuti. Christine Kennelly, invece, è una giornalista scientifica australiana che collabora a molti importanti giornali stranieri, la quale ha scritto il libro Storia invisibile della razza umana, come il DNA e la storia danno forma alla nostra identità e al nostro futuro. Questo è pubblicato da Mondadori, 408 pagine, 28 euro, ed è tradotto da Francesca Gimelli. Di nuovo un libro che si rivolge a tutti per far capire come funziona l'eredità dei nostri antenati a noi stessi, quell'eredità che ci viene appunto trasmessa attraverso il DNA. Una realtà considerata, scrive l'autrice, spesso con ostilità, perché è associata all'idea di determinismo e quindi che si possano trasmettere le stesse caratteristiche dei nostri antenati indulgendo al razzismo o al sessismo. In realtà sul DNA c'è molto da studiare, spiega l'autrice. Il DNA tramanda, e quindi la prima domanda è che cosa tramanda, e qui appunto ce lo spiega la giornalista, comunicandoci anche qualche sorpresa, per esempio che sono stati individuati 16 milioni di persone portatori del cromosoma Y di Gengis Khan. La Kennelly non tace delle preoccupazioni su alcuni tipi di ricerca sul DNA e si diffonde naturalmente sulle possibilità degli studi che la comprensione del DNA potrà aprire, quindi le nuove frontiere alla sanità e alla medicina. Un grande scienziato, un matematico per la precisione, questa volta inglese, John Barrow, che ci propone 100 cose che non sapevi di non sapere sulla matematica e le arti. Anche questo è pubblicato da Mondadori, 324 pagine, 22 euro, ed è tradotto da Laura Serra. Questo è un invito divertente e competente a cogliere la presenza della matematica in ambienti e in situazioni a noi consuete, ma in modo appunto molto inconsueto, soprattutto gli ambienti relativi all'arte e al design. Barrow passa in rassegna 100 casi, il primo è di quanti guardiani ha bisogno una galleria d'arte, l'ultimo è Scimmie di Shakespeare, la nuova generazione, che si riferisce a un esperimento che è stato fatto di far battere i testi di un computer da scimmie virtuali, dopo autentici esperimenti condotti con scimmie vere, per verificare quali sequenze potessero emergere che corrispondono alle opere di Shakespeare. Come mai, si chiede Barrow, La matematica è straordinariamente efficace nella descrizione delle scienze fisiche più semplici, ma incredibilmente inefficace quando si tratta di capire molte delle complesse scienze del comportamento umano, e cerca di spiegarcelo appunto in questo libro. E a questo punto... Il confettino. Un libro per far accostare i ragazzi alla matematica è quello di due iraniani. Lui è un matematico molto famoso, Mehdi Behzad, celebre per i contributi alla teoria dei grafi. Lei è una drammaturga e sceneggiatrice, si chiama Nagmeh Samini, e hanno scritto insieme La leggenda del re e del matematico, perché risolvere un indovinello può cambiare il corso della storia, pubblicato da Francesco Brioschi, 132 pagine, 14 euro, ed è tradotto da Elena Balzan. Questo è un testo teatrale, una vera e propria commedia che prende le mosse dall'enigma di Alcuino, un celebre studioso vissuto ai tempi di Carlo Magno, e che attraverso appunto la veste drammatizzata, la veste teatrale, fa scoprire ai giovani lettori il fascino della matematica. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.